Sarà la parola chiave domani sera, intensità, voglia. Vincere, solo vincere. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Modric verso Danilo, Ding deve scalare, uno contro uno, cerca il doppio passo, occhio a cross in mezzo verso Cristiano, 1-0 Real, eccolo qui, il 40° gol stagionale di Cristiano Ronaldo. Una ripartenza, attenzione, Torres e Griezmann, tocca per lui, Griezmann tutto regolare, tutto solo Griezmann, rete credibile, contropiede micidiale, Griezmann non ha sbagliato, 1-1. Si accentra improvvisamente, prova il tiro deviato, rete! Cristiano Ronaldo, che gol! Eccezionale l'acuto del fuoriclasse, colpo di scena. Gavi arriva per primo, vedi Saul che prova a metterla in mezzo, in colpo di testa, eccolo! Ecco Griezmann! 1-0 Atleti! 1-0 Atleti! Griezmann! La cambia lui! Bello sta musica. Bella musica, bravo Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Veronato in regia, bravo anche lui e bravo anche Federico Bini in redazione, bravo anche Giovanni Capuano. Bravi tutti che è qui con me. E oggi è il giorno delle parole, domani sarà quello della Coppa alzata contro il cielo, oggi affusissimo di Milano. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Mi dispiace non essere lì con voi oggi, però. Ci manchi tanto. L'ho tradito, dovevo dargli il passaggio, però sono venuto via prima. No, quindi... poi oggi è qua, siamo... Conferenza stampa del Ciolo. Sì. Conferenza stampa del Ciolo, quindi rimaniamo adesso nel campo dell'Atletico Madrid. A proposito, dove la guardate, con chi la guardate, chi vince secondo voi, avete voglia di vedere questa finale, chi sarà il protagonista? 800240024. Posso aggiungere una domanda? Se avete un biglietto lo vendete o ve lo tenete? Se ne avete due, fate uno e uno. Avete un gran mazzo se avete due biglietti, perché sono assegni circolari. Comunque, rimaniamo nel campo dell'Atletico Madrid e poi... con Filippo Maria Ricci più tardi ci sposteremo nel territorio del Real, dove la conferenza stampa di Zidane è attesa in serata 6:30. Sentiamo una battuta del Cholo Simeone raccolta da Ricci Madario. Perché sicuramente ogni squadra ha un stile di gioco e una caratteristica dei calciatori che si sentono più comodi con una facetta di gioco o con un'altra facetta del gioco. È chiaro che per la caratteristica del giocatore del Barcellona, del Bayern Munich, loro si sentono molto più comodi con la palla, e è vero che noi siamo più intelligenti e sicuramente molto più squadra in quanto ai movimenti che facciamo dentro del campo senza palla. Molto più intelligenti, molto più bravi. Federico D'Alessandria, non faccia l'integralista, mi scrive: se dedicate l'intera partita, puntata alla partita di domani, ditelo subito per favore che faccio altro, il calcio minore, parentesi, senza Juve tale è, chiusa parentesi, non mi interessa. Parleremo anche di altro, soprattutto dell'altra sponda di Torino, caro il mio Federico, stia con noi, a poco una sorpresa. Allora Filippo, che faccia aveva il Ciolo? Cosa ha detto? Positiva, quello quando si arrabbia sulla scaramanzia. Quella è la prima domanda, gli fanno una domanda, no? Perché dice: ma insomma, si parla tanto di scaramanzia, di Simeone, così, e dice: ah, ci mancate di rispetto. In realtà, la scaramanzia è al primo posto delle sue priorità, secondo me. Comunque, tanto è vero che sono venuti Gabi e Torres in conferenza stampa, che sono quelli che l'hanno accompagnato nelle partite decisive di questa primavera. Detto questo, a me piace quella risposta, l'unica risposta che ha dato in italiano, domanda di un giornalista macedone, per il resto, sul fatto che loro sono più squadre, sono più intelligenti senza palla, mi piace. E poi la cosa più bella è questo insistere su Casemiro, che è stato il protagonista della sua conferenza stampa, l'avrà citato 4 volte, così per mettere un po' in difficoltà Zidane, no? Sì. Esatto, per due motivi. Esatto. Che giocatore la classica domanda, che giocatore toglieresti all'altra squadra? Casemiro. Esatto, sì, sì, anche sì, Perez, diciamo, quelli anche Perez. Anche che è più importante è della BBC, dei tre attaccanti, almeno per l'equilibrio. Però secondo me ci sono due motivazioni. Uno, che gli piace dar fastidio in questo modo, perché il Real Madrid, che poi in realtà è una gran mentira, no? Una grande menzogna, vorrebbe passare per una squadra offensiva. In realtà questa è una squadra che gioca esattamente come l'Atletico. E quindi lui, insistendo sull'importanza di Casemiro, gli ricorda che alla fine sono diventati dei controfitti anche loro, abbastanza catenacciari. E due, più sottile, secondo me vuol mettere pressione allo stesso Casemiro, che è diventato fondamentale, ma resta ancora un giocatore molto verde, come si dice in Spagna, molto acerbo ancora, non ha mai fatto partite così importanti. Per cui questa è per me una delle prime cose interessanti che si vedono rispetto alla finale di domani. Pretatticona. Ma è anche pretattica quando lui dice: mi immagino che il Real farà più gioco di noi, verrà qui, farà la partita. Secondo me se lo augura. Certo. Più che immaginarselo. Certo. No, ma se lo augura, ma lui l'altra volta ha detto che se le aspettava in difesa. Cioè, infatti ha cambiato rispetto a sabato, ha cambiato leggermente impostazione in questo senso, esattamente per quello, cioè gioca il gatto col topo. Lui sa benissimo che se questa partita si potesse giocare senza palla sarebbero contenti tanto lui come Zidane. Ma posso farti una domanda, Filippo? Posso farti una domanda? Cioè, mentre tra Real Madrid e Atletico Madrid, dei dati come sono andati gli ultimi anni, il peso della storia è chiaro ed è tutto per il Real Madrid, che fa la 14ª finale di Coppa dei Campioni di Champions League. Però è un paradosso che invece in panchina l'allenatore vero è Simeone e l'altro è secondo me Simeone fa bene a far pesare questa, che credo sia l'unica vera differenza, l'unico vero scontro, duello alla vigilia a favore dell'Atletico Madrid. Però c'è da dire che Zidane ha esperienza, diciamo, ha accumulato comunque esperienza. No, anche stando dietro Ancelotti, comunque era a Lisbona, no? C'è quella bellissima immagine, no, di Zidane che dà istruzioni a Ancelotti, che lo guarda e dice: tu cosa stai facendo, no? Cioè, Zidane tirava già da 2-3 anni, però è chiaro che Simeone è uno. Abbiamo perso Ricci, ma lo recuperiamo più tardi perché abbiamo un secondo appuntamento con lui. Allora, traffico, poi arriva Pardo, che oggi è al Premium Lounge, giusto, quello, no? Villaggio Premium in Piazza del Duomo, ma soprattutto abbiamo un appuntamento col presidente del Torino, Urbano Cairo, che si è preso Mihajlovic e che ha lasciato libero Ventura. Per dove? Cercheremo anche di scoprirlo. Per arrivare a quel momento ho bisogno di fare una bella chiacchierata domani con loro. Devo far sentire quello che sento ai calciatori perché loro lo possa trasmettere dentro del campo. Sono tante cose per arrivare a questo fatto, che sicuramente dopo, se succede, sarà più facile dire quello che penso. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Giovanni Capuano, come vedete, che con me in studio, Pierluigi Pardo, ciao. Eccoci, come va? Molto bene, anche perché c'è il presidente del Torino, Urbano Cairo. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Non abbiamo ancora avuto occasione di parlare della... Posso chiamarlo colpo di mano? O comunque è stata una trattativa lampo o comunque una sorpresa, quella dell'ingaggio di Sinisa Mihajlovic, allenatore da Torino, non c'è dubbio, e sarà arrabbiato ulteriormente per come è andata la stagione. Ma diciamo che sì, più che un colpo di mano è stata poi una decisione presa rapidamente quando ho visto che c'era questa opportunità per il nostro mister Ventura di andare in nazionale. Io ho sentito lunedì scorso, quindi parliamo di quasi 2 settimane fa, il presidente federale Tabecchio, che mi ha chiamato, direi molto cortesemente, per chiedermi se c'era la possibilità di contattare il nostro mister per la nazionale, e io gli ho detto: guardi, verifico con lui se lui è interessato, qualora lo fosse le dico subito di sì, perché avendo avuto 5 anni bellissimi con Ventura, avendo ottenuto dei buoni risultati, avendo fatto cose importanti insieme, ovviamente nel momento in cui fosse disponibile e interessato e contento di andare in nazionale non potrei chiaramente trattenerlo. Così ho fatto, il mister mi ha dato una sua disponibilità, ho capito che era una cosa che gli piaceva, e al che ho chiamato Tabecchio, ho detto: guardi, lo contatti pure, che chiaramente io lo lascio libero se troverete un accordo. Nel frattempo però ho detto, io non è che posso rimanere, diciamo, certo, scoperto, no? E chiaramente essendoci la disponibilità sul mercato, diciamo, di Mihajlovic, che era stato esonerato dal Milan, l'abbiamo contattato, abbiamo visto in lui una entusiasmo, diciamo, a venire al Toro, anche perché c'è molta affinità tra diciamo, il Torino, il temperamento dei nostri tifosi, il tremendismo granata e il nostro nuovo mister. Quindi siamo stati velocissimi, una cosa veramente, ci siamo incontrati e accordati praticamente subito, attendendo evidentemente che il Milan lo liberasse, e a quel punto lì tutto è stato fatto. Quindi lei si stupirebbe molto, presidente, se qualcuno le restituisse Ventura. Non accadrà, non accadrà. No, ma adesso Ventura ufficialmente non ha rescisso col Toro, quindi Ventura, tecnicamente è ancora un allenatore del Torino. No, Ventura non ha rescisso con noi. Ventura, comunque sia, la stagione finisce al 30 giugno e ha tutto il tempo adesso di fare le cose per bene, così come la nazionale. Non c'è nessuna pressione che io metto su nessuno, perché comunque sia poi io ho preso una decisione in quanto ovviamente non potevamo rimanere ad attendere che le cose procedessero. Nel momento in cui però il mio mister, diciamo, mi dichiara una disponibilità ad andare in nazionale, anche se non rescindo, ma devo preoccuparmi, diciamo, di chi sarà il mio nuovo allenatore. E quindi da lì ho chiamato Mihajlovic. Poi dopodiché tutto il resto è una cosa che io non voglio minimamente, nella quale non voglio minimamente entrare. Sicuramente Tavecchio farà le cose giuste, come credo che sappia fare, e però ecco, non è che si sia, è una cosa in mano a loro, in mano a Tavecchio, in mano a Ventura, e io non faccio l'agente di Ventura, ma ero il suo presidente, adesso non lo sono più, ma insomma comunque lui è sempre sotto contratto con noi, e adesso poi vedremo nelle prossime settimane come le cose voteranno. Capito, Pardo, come è andata la storia? Sì, ma ci sono due cose da aggiungere, che il presidente non aggiunge per una questione sua di garbo, ma che vanno dette. Cioè, primo, che Ventura ha anche altre offerte volendo, e secondo, che mi risulta che il rapporto col presidente sia di affetto profondo e di stima e di contatto continuo, quindi veramente sì, una vicenda che non può finir male, perché è una vicenda di uomini che si stimano, e oltretutto Ventura, oltre alla nazionale, ha anche altre offerte. Bravo, sì, l'hai detto tu, io non volevo diciamo, come dire, approfondire il tema, però effettivamente è così. Ventura avrebbe anche altre possibilità, e adesso però appunto c'è questa ipotesi nazionale, e dall'altra parte il mio rapporto con lui è un rapporto eccellente, tant'è che mi ha anche chiesto di fare il suo testimone di nozze nelle nozze che saranno celebrate appunto il mercoledì prossimo, per cui insomma il rapporto tra noi è un rapporto splendido, dove si è lavorato bene insieme, ma si è creato anche un rapporto personale di affetto, di amicizia, che ovviamente va avanti anche al di là del rapporto contrattuale, questo sicuramente. Cosa chiede a Mihajlovic? E Mihajlovic cosa le ha chiesto? Posso chiedere? Io posso chiedere io a lei? Sì, ma ci mancherebbe, siamo qua per un'intervista, non è... se non volessi rispondere non mi farei chiamare, non mi farei convocare da voi. No, ma diciamo, cosa chiedo a Mihajlovic? Diciamo che lui non è che mi ha chiesto nulla, come dire, io a parte che lo conoscevo da tempo, perché quando abitava a Milano portava i suoi figli allo stesso collegio dove vanno i miei figli, e quindi insomma ci conoscevamo già, ma io chiedo a lui diciamo di continuare nella politica dei giovani da crescere, da sviluppare, da lanciare, che abbiamo cominciato con Ventura 5 anni fa. E tra l'altro ne abbiamo alcuni anche molto bravi che ritorneranno da esperienze in Serie B, come Parigini, come Barreca, come Gomis, come Aramu, che possono essere, che oltretutto sono giovani granata, cresciuti nella cantera granata, e quindi mi farà piacere se lui riterrà di poterli lanciare e utilizzare anche appunto durante il prossimo campionato. E poi io chiedo a lui, diciamo, di essere se stesso, il che vuol dire essere la persona ambiziosa che ho visto che è, e la persona, diciamo, determinata e di carattere che ho visto che è, e poi le cose verranno di conseguenza. Poi c'è un fatto tecnico di moduli, di vedere come giocare. Lui preferisce giocare più a 4 che non a 3 dietro, e quindi faremo delle valutazioni per fare anche dei cambiamenti, e questo è quanto, insomma. E lui A me non è che ha chiesto nulla, lui sa che io sono ambizioso e ho voglia di fare cose bene, ho voglia di continuare nella crescita del Torino, che ha fatto dei bei passi avanti in questi ultimi 5 anni nel sodalizio con Ventura, di cui siamo tutti contenti, con il 7° posto, con l'Europa League, con il percorso bello in Europa League e con la ciliegina sulla torta della vittoria appunto a Bilbao, con il 9° posto l'anno dopo a un'incollatura danno Europa League, insomma tante buone cose, e con i tanti giovani anche lanciati nella Serie A al Torino e poi in nazionale, penso a Darmian, a Immobile, certo, a Bonna, a Cerci, ma anche ai recenti Benassi, Belotti, Paselli, Zappacosta, eccetera, insomma, e più tutti quelli di nazionali estere, i Maximovic, Bruno Perez, insomma, veramente qualcuno tornerà molto a chiedergli quei giocatori, così come bisogna. No, dico, qualcuno tornerà a chiederle quei giocatori di cui lei ha fatto nome, Bruno Perez, Maximovic. Adesso diciamo che noi vogliamo pensare intanto alla nostra squadra che faremo per il prossimo anno e pensare, diciamo, quali sono i giocatori assolutamente funzionali al nostro mister, a Mihajlovic. Può essere Immobile, presidente? Come? Può essere Immobile? Funzionale. Un po' la domanda. No, vediamo, diciamo che Immobile chiaramente è un giocatore a cui siamo affezionati, ha fatto benissimo con noi un anno, poi è ritornato quest'anno, vediamo, insomma, vediamo un po', credo che lì ci sia appunto il contatto tra lui e Petrachi per vedere un po' anche da parte sua se ha quella voglia, diciamo, di rimanere al Toro, che è una cosa fondamentale, perché se non c'è, siccome l'ho visto un po' incerto, diciamo, in queste ultime 2 settimane, allora è importante capire da lui se veramente il Toro non è una cosa che gli è servita soltanto per questa stagione, diciamo, per ritornare in nazionale, o è qualcosa invece cui è legato, tiene, e quindi mi chiede, presidente, mi riscatti. Se questo, cioè, sarà, mi pare che sia un invito, presidente, a Immobile. Sì, se questo sarà... Beh, vi dico subito che se lui mi chiedesse, presidente, mi riscatti, lo farei. Però siccome al momento non me l'ha chiesto, anzi ho avuto indicazioni lievemente differenti, mi piacerebbe di capire cosa ne pensa, perché ovviamente fare un investimento importante quale quello ipotizzato con il Siviglia per Immobile non è che si può fare a cuore leggero senza che il giocatore sia fortissimamente motivato a rimanere. Perfettamente chiaro. Perfettamente chiaro. Deve secondo me tornare a essere il vecchio Immobile di qualche tempo fa, dei tempi di Ventura, il giocatore che andava in profondità, che dava sempre profondità, perché l'esperienza all'estero l'hanno, secondo me, il talento rimane assoluto, l'hanno un po' confuso dal punto di vista tattico, nel senso che spesso l'abbiamo visto giocare un po' più basso, venirsi a prendere il pallone, insomma lui ha una grande qualità che è l'accelerazione, lui è uno che va avanti 20 volte a partire, che quindi poi inevitabilmente in 2 o 3 occasioni si fa trovare pronto per andare quantomeno al tiro, quindi questo tipo di caratteristica che era stata secondo me enfatizzata al massimo dal Torino di Ventura 2 stagioni fa, certo, 2 stagioni fa, si è un po' persa, però il talento c'è, la motivazione, certo, ma noi siamo, diciamo che noi siamo affezionatissimi a Immobile, quando è ritornato ero veramente felicissimo. C'è anche una canzone, presidente, c'è una canzone per Ciro a Torino, c'è una canzone per Immobile nel prepartita addirittura, no? Sì, sì, infatti, sì, ne scriveremo anche altre, ma comunque, no, ma quindi però l'importante è poi tecnicamente il modo in cui lui potrebbe giocare, quello lo decide il nostro allenatore Mihajlovic, quindi quello non è un problema, però insomma quello che conta sempre è che uno abbia la fortissima determinazione ad essere parte di un progetto, di una squadra, poi da lì tutto si fa, non è mai un problema di metterci 1 milione in più o in meno, o qual è la posizione tattica, quella è più facile riscattare Immobile o prendere il Corriere della Sera, così è. Domanda facile. Ma il Corriere della Sera siamo in pista, come ben sapete, lì abbiamo fatto un'offerta l'8 aprile, che poi ha avuto una controofferta, una controopa un mese dopo, ma sono 2 cose completamente diverse, e quindi io sono fiducioso, perché la mia è un'offerta industriale, dove io praticamente dico all'azionista della RCS di oggi: non andare via, rimani con me, dammi le tue azioni, ti do azioni della Cairo Communication, che sì, sono azioni, ma valgono molto e comunque hanno un bel valore in borsa, e rimane nel progetto che io voglio ristrutturare la RCS e farla valere certamente di più di adesso. Nell'altro caso dicono: ti do 0,70, prendi questi danari e vattene via, che la RCS la voglio ristrutturare io, poi non so se riusciranno a farlo, perché sono le stesse persone che hanno gestito negli ultimi anni, diciamo con un successo relativo, e dicono vogliamo ristrutturarla noi e tu non importa, non partecipi più. E quindi sono due cose molto diverse. Quindi vediamo come dire, qua la cosa bella che deve succedere è che il mercato deve dire appunto quale delle due preferisce, e questa è la cosa più bella, perché il mercato decide. E da un lato RCS, dall'altro sì. lato immobile. Giovanni Capano ha un'ultima domanda. L'editore puro, posso dire una cosa? Sì. Fare un endorsement. L'editore puro, cioè, è un mestiere fare l'editore, eh? Poi chiaramente la televisione è un conto, i giornali sono un altro, però l'editore puro è quello che ha un'idea del mercato, del lavoro, del mestiere, del rapporto giornalisti. Chiudo la parentesi, prego Capuano, dica. Ma io voglio essere un po' maligno, visto che tanto poi adesso c'è la borsa. Prima parlavamo di Ventura e delle altre offerte. Presidente, ma se la chiamasse Galliani e Berlusconi e le chiedesse un consiglio su Ventura al Milan, lei cosa gli risponderebbe? Insomma, io credo che la risposta mia la danno i 5 anni insieme. Credo che Ventura sia un allenatore che, secondo me, per come io l'ho visto all'opera, è un allenatore che avrebbe dovuto fare una carriera molto più importante. Invece le cose più importanti, e sono contento, le ha fatte con il Toro. Però è un allenatore che è al di là dell'età anagrafica, peraltro è al primo matrimonio adesso, per cui è giovanissimo. C'è sempre tempo. Credo che sia un allenatore che ha ancora una voglia incredibile, e quindi credo che sia veramente oggi chi prende Ventura fa. Ma poi è perfetto per un progetto di giovani italiani da lanciare. Bravo. Da far crescere. Questo sì, bravissimo, certo. Sì, perché lì diciamo che se il Milan va avanti con l'ipotesi appunto di cui si parlava, di giovani italiani, allora lì per i giovani Ventura, ma lui è bravo per i giovani, ma anche per i giocatori, diciamo, che hanno qualità, magari meno giovani, perché da noi hanno fatto cose mirabolanti. I Moretti, i Vives, i Gazzi, i Bovo, eccetera, eccetera. Quindi non erano giocatori di primo piano. Il meglio da tutti. Grazie, presidente. Grazie mille. Sempre grazie un piacere. A voi. È sempre un piacere essere con voi. Grazie, presidente Cairo. Dimmi. Posso dire una cosa? Ventura è perfetto, perché abbiamo detto tante volte: il Milan delle grandi società italiane, nonostante i disastri, è quella che ha una sorta di pregiudizio basato sull'estetica, cioè che comunque ha un'attenzione particolare all'esterica, diciamo. Ventura è perfetto, in questo Ventura è perfetto per il Milan, e Mihajlovic è perfetto per il Toro, ancora di più che il contrario, perché Mihajlovic può incarnare lo spirito di lotta, di battaglia tipico del Torino, e Ventura è uno di quelli che gioca come Sarri, come Edison, 30 anni fa, come anche un calcio bello. Non è solo un'ipotesi, ci sono 14 32 10 secondi borsa, torniamo. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Tutti convocati. Pensavo che al Madrid servisse un allenatore, o quantomeno uno che non facesse danni. È arrivato Zidane, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e uno che non fa danni. Quindi è la giusta meta di una squadra che punta sempre a vincere, il Madrid. Forse Zidane non lo vedevo come allenatore come l'ho visto Cholo, no? Che da sempre è stato uno che era molto interessato nel gruppo, di capire nelle tattiche, ma anche Zidane, che con tutta la sua esperienza e il suo talento sta riuscendo a trasmettere ai giocatori la sua filosofia, giocando anche molto meglio di come stava prima. Perciò sarà una bellissima finale, sono curioso di vederla. Questi i pareri di Marco Materazzi e di Ronaldo il Fenomeno. Torniamo quindi un po' sulla finale di Champions League, ma abbiamo sentito prima il presidente Cairo spiegarci molto chiaramente la richiesta da Federcalcio per Ventura, il motivo per cui ha dato il suo benestare all'avventura di Ventura in nazionale, che vediamo se si concretizzerà, e i motivi per cui ha preso Mihajlovic e le ragioni che possono indurlo a trattenere Immobile. Sempre con me Giovanni Capuano. Pierluigi, ci sei, vero? Sì, ci sono. Piazza Duomo a Premium Lounge. Sì, adesso sono in mezzo alla piazza dove ci sono band che suonano, come sentite. Adesso mi metto in un posto un po' più riparato, però devo dirti che il clima di festa che c'è praticamente da ieri è incredibile. Sì, eh? Veramente può sembrare banale, insomma, però quello che riesce a muovere il calcio è incredibile, anche dal punto di vista commerciale, anche dal punto di vista piegamento economico, perché certo, infatti erano sponsor di cose, ma insomma la passione e il fermento che c'è in questa città in questi giorni è una cosa magnifica, e credo che veramente solo il calcio abbia questa forza, tipo in un mezzo scantinato, e quindi qui dovrebbe esserci meno casino. Dunque, Sergio da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione, molto molto bella. Grazie. Però volevo parlare un attimino, fare un intervento su Ventura. Non sono molto d'accordo con voi, non sono assolutamente d'accordo con Cairo, perché secondo me Ventura è molto scarso come allenatore, ma lo ha dimostrato anche quest'anno nel Torino, è arrivato nella parte destra della classifica fino a 4-5 giornate dalla fine, lottava per retrocedere. Adesso io da qui a dire che, cioè, io capisco che vendo la propria merce importante, però dire che è un grande allenatore. Beh, no, non si tratta di vendere, a me sembra che nel ciclo dei 5 anni Ventura abbia fatto molto bene al Torino. È un allenatore molto bene, decidete voi. E poi dico anche una cosa, che non si può desiderare la valorizzazione dei giovani e i risultati subito, cioè bisogna anche decidere la vita da che parte si sta. A me sembra che questo Torino, che è una squadra con tanti italiani, con tanti giovani di talento, alcuni dei quali non hanno reso come ci si poteva aspettare, ma perché è tipico dei giovani, abbia fatto complessivamente bene. Su questa stagione sono d'accordo, e posso anche arrivare a pensare, forse lo sa lo stesso Cairo, che un certo tipo di ciclo forse fosse in fase di soluzione, no? Perché tutte le cose della vita non iniziano e non la fine, e probabilmente anche un certo tipo di feeling col pubblico, con l'ambiente e con gli stessi giocatori forse stava venendo meno. Ma voglio dire, ci ha avuto Mourinho in maniera ben più clamorosa quest'anno il problema al Chelsea, figuriamoci se dopo 5 anni non ce lo può avere Ventura. No, è chiaro. Torino. Il bilancio complessivamente è un bilancio positivo. Beh, credo che sarebbe veramente ingeneroso dire il contrario. Ma positivo dal punto di vista dei risultati, altri, dal punto di vista dei risultati e dal punto di vista, come sottolineava prima Cairo, dei giocatori prodotti e di quelli rivitalizzati, perché anche di questo bisogna tenere conto nel pacchetto del lavoro Ventura, non semplicemente sulla somma, fare la somma dei punti e dei piazzamenti. Saluto e ringrazio Alberto Brandi, padrone di casa a Premium. Ciao ragazzi. Ciao Alberto. C'è anche una voce in 4K. Non è molto definita come il 4K, essendo telefonica. Però no, non tocchiamo questo, ci vedo. Questo tasto. Quale? Quello della definizione telefonica. Ah, quello della definizione. No, vabbè, okay. È quella di Pardo, la voce in 4K. Io e Alberto ci stiamo guardando, stiamo facendo dietro, esatto, le boccacce. Me lo sono trovato alle spalle, è un scherzo. Quando la radio diventa realtà. Pensa un po'. Alberto, la tua Champions League com'è stata? Quale? Quale delle tante? No, questa, dai! Questa vissuta questa a Premium. Vissuta sì. Premium, è stata esaltante. E in questi ultimi giorni siamo a dei livelli mai toccati nella mia carriera per la soddisfazione del prodotto che sto vedendo in onda da ieri mattina alle 10. Produrre 60 ore live in diretta qui da Piazza del Duomo con questa bellissima vista che abbiamo alle spalle dei conduttori è appagante per chi fa questo tipo di lavoro, cioè stare dietro le quinte e cercare di proporre ai nostri abbonati, ai nostri clienti, a chi ci guarda, un prodotto all'altezza della manifestazione della quale deteniamo i diritti. Vanni Capuano vuole chiedere qualcosa. Ma poi ho scoperto che dietro questi tre giorni, soprattutto dietro quello che accadrà domani, c'è davvero un mondo. Io so che sì. Questa radio se n'è anche occupata con un programma tecnologico anche, no? Perché? Perché è davvero qualcosa che è anche una vetrina per noi. Ora so che voi ragionate e lavorate con dei protocolli UEFA che sono stringenti, molto rigidi, però la gente deve sapere che insomma quella di domani è anche una grande occasione come vetrina per tutto il nostro sistema. Io sono d'accordo con te, guarda, noi abbiamo titolato il nostro comunicato stampa, evitando di mettere premium come primo nome, l'Italia. Abbiamo utilizzato l'Italia produce la finale per tutto il mondo. Ci piace molto questo concetto, l'Italia che si fa vedere, si mostra a tutto il mondo. Mediaset produce partite di Coppa dei Campioni dal 1981, il primo evento prodotto, Juventus Celtic, prima partita non trasmessa dalla Rai, settembre 1981, è di 35 anni fa. Questa è la quarta finale che produciamo, due di Milano, una di Roma e la recente dell'Europa League a Torino. Dovremmo essere abituati a produrre finali, a produrre partite di alto livello, però questo ha un sapore speciale, perché vabbè, ci vede protagonisti intanto con Premium, e nella nostra città abbiamo acceso un canale che fino all'anno scorso, fino a luglio dell'anno scorso era spento, ed è una sfida che onestamente intanto ci ha coinvolti in tutta questa stagione. Da quando abbiamo cominciato l'anno, oltre a preparare la quotidianità, abbiamo sempre affrontato dei meeting su questo evento. Siamo preparati, siamo solo a un quarto del percorso, perché poi la nostra partita si giocherà come quella tra Real e Atletico Madrid domani sera a partire dalle 20:45, ma sono convinto che faremo una bella figura. Ci sono due numeri che mi hanno impressionato. La prima è che l'audience complessiva di una finale di Champions è superiore a quella del Super Bowl, sì, che tutti noi continuiamo a ritenere essere l'evento sportivo. L'altra cosa che ho scoperto andando a un workshop in Bocconi, in cui si parlava di che cosa c'è intorno alla finale, è che domani userete credo 40-41 telecamere, 43, ma quello che noi vediamo diciamo nel flusso televisivo dai tablet, che è diciamo quello che viene fruito dalla maggior parte dei tifosi in tutto il mondo, sarà prodotto fondamentalmente da 8 telecamere. Tutto il resto poi va in 1000 rivoli di produzioni, di integrazioni. Certo, e questo è incredibile, perché noi dobbiamo abituarci che in realtà il prodotto sportivo, il prodotto calcistico è qualcosa che esula poi semplicemente da quei nostri 90 minuti che seguiamo. No, abbiamo il dettaglio, avremo il calzettone di Cristiano Ronaldo, il parastinchi. Sì, diciamo, noi prepareremo un documentario, avremo ovviamente delle camere dedicate ai principali protagonisti annunciati. I prodotti sono tantissimi, le personalizzazioni altrettanto, è uno sforzo produttivo incredibile. Però ecco, noi siamo presenti a San Siro da venerdì della settimana scorsa, e abbiamo proprio un village, un nostro village, un premium village che sta lavorando con un Cologno si è trasferita a San Siro e in Piazza del Duomo, e sono sincero, è molto faticoso ma appagante, la soddisfazione è massima. C'è chi scrive, sarà che sono a Milano ma la Champions è cresciuta, le sensazioni sono quelle di una finale mondiale. Non ti resta che dirmi, prima di salutarti, Alberto, chi vince? Dimmi tutto, chi Carlo. Vince? Chi vince? Dai, oggi è il giorno delle parole e dei pronostici. Sì, hai ragione, metto avanti le mani, l'avrete detto mille volte, è difficile prevedere la squadra vincitrice di una finale, immaginiamoci si tratta di un derby, e se è la rivincita o la nuova occasione, come amano dire quelli dell'Atletico Madrid, due anni dopo Lisbona. Secondo me vince il Real, però non mi stupirei se poi alla fine fosse Simeone ad alzare questa coppa. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro ciao, a tutti, ciao, un abbraccio. Ciao Alberto, ciao, Brandi, torniamoci un attimo per il traffico, torniamo. Tutti convocati. Carlo, buongiorno. Salve, sono Carlo da Bagnacavallo. Grazie Bagnacavallo per la convocazione. Grazie, sì, provincia di Ravenna. Esatto. E io volevo dire la mia a proposito di Ventura. Sì. Io concordo sulla sua scelta, se mai venisse fatta, perché penso che sia una persona d'esperienza, e a differenza dei nuovi giovani allenatori, vedi Montella, Di Francesco e compagnia bella, lui non avrebbe il timer attaccato, cioè non starebbe sempre alla finestra a vedere che panchine si liberano, ma come dice Pardo con un'espressione molto felice, è un allenatore risolto. Sì, è uno che ha raggiunto la pace dei sensi. Beh, sì, la pace dei sensi magari no. Sì, a livello di club, a livello di club. A livello di club probabilmente sì, è un allenatore di questo tipo. Ma siamo sicuri che Ventura, allora, nazionale è una possibilità. Però tu parlavi prima del Milan, è uscito anche il nome della Lazio. No? Questi sono i nomi che risultano anche a te, Pardo? Sicuramente, però credo che sia Guidano Prandelli. Ventura sicuramente ha avuto un contatto con la Lazio, questo non c'è dubbio, ma credo che Ventura, ribadisco, al di là della Lazio abbia offerte. Io non so dirti dove, però io l'ho incontrato l'altra sera e mi è sembrata una persona tranquillissima, chiaramente certo. Felice se gli venisse consegnata la nazionale, perché ovviamente insomma è un grande riconoscimento, ma non preoccupata, diciamo, dal suo posto di lavoro l'anno prossimo. Torniamo da Filippo Maria Ricci, perché siamo passati dall'Atletico Madrid e stiamo andando verso il Real Madrid, inseguendo Filippo Maria Ricci. No, Filippo? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, 18:30, conferenza. Arrivo buenas tarde, conferenza stampa di Zidane. Al di là di Casemiro, prevedi qualche novità sorpresa dell'ultimo istante? No, ci sono due dubbi nell'Atletico, ma che dovrebbero essere risolti, però no, il Real Madrid è quello e non sarebbe strano il contrario, tutto lascia pensare che no, fino a quelli che hanno giocato lei, quindi Carvajal in vantaggio su Danilo e James e Isco, che tanto piacciono al presidente, si accomodano in panchina e il colombiano insomma rischia pure proprio di non alzarsi mai. E niente, e poi ci sono i tre, a vedere sempre le condizioni di Ronaldo, dice che sta bene, sta benissimo, secondo me è un po' acciaccato, lo è, e arriva comunque meglio di due anni fa, tipo era arrivato cotto. Infatti poi fece un mondiale orrendo, poveretto, e niente, adesso Real Madrid è questo, li vedo tranquilli, mentre in questo senso si vede anche un po' il peso del club, dell'istituzione, dell'abitudine a certe cose, perché ecco, Simeone si è arrabbiato perché no, gli hanno chiesto la scaramanzia, però ha cambiato tutti i programmi, insomma ha fatto un gran sbatter d'ali. Il Madrid ha preso una strada precisa, fa la sua vigilia normale, insomma, sufficientemente abituati a queste vigilie. Chiedo una cosa a tutti e tre, Filippo Maria Ricci, Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo, in un minuto e mezzo, chi può essere l'ombra del partito da una parte e dall'altra? Pardo. La difesa nell'Atletico, cioè nell'Atletico io l'ombra del partito per me è il collettivo. Poi non so, può essere Contran, può essere Godin, però gli dice, cioè, la solidità, e dall'altra parte l'uomo chiave è Cristiano. C'è molto da discutere, secondo me. Dalla sua partita, secondo me, dipende buona parte dell'esito della finale della Champions. Ma guarda, io ti dico Griezmann per l'Atletico, perché ho in mente una partita che, se magari si sviluppa come quella col Bayern, se l'Atletico ha quelle due tre palle, non di più, lui è fondamentale. Due tre fiammate offensive. Su Real Madrid non lo so, Cristiano Ronaldo magari è banale, diciamo Bale, perché poi alla fine anche a Lisbona Bale aveva avuto un peso non indifferente nel ribaltarla, e quindi magari Filippo? Io dico El Niño Torres, addirittura, che ho visto veramente determinato, ha detto che insomma lui ha vinto già la Champions col Chelsea, non gliene frega niente, ha vinto tanto con la nazionale e va bene, molto bello, ma non c'è niente come vincere col club, no? Che tifava da bambino, nel quale è cresciuto, via dicendo. Il peso della cantera, giocano con quattro canterani, e quindi io vado col Niño che torna a San Siro, dove non ha mai segnato, no? Non ha mai impressionato, rimane quel grande gol all'Empoli, no? Nella staffa italiana, esatto. No, in realtà a San Siro ha segnato contro l'Inter, però dico il Niño da una parte e dall'altra dico Sergio Ramos nello stadio di Paolo, come dice lui. Sempre di San Siro, lo stadio di Paolo Maldini. Dico, questi due sono gli elementi. Non sarebbe la prima volta esatto, ad essere all'ombra del partito, come unico sappiamo. Unico bambino colcionero in una classe di 23 bambini che si trovano per il Real Madrid. Sì, diventato tifoso dell'Atletico per una tazza che c'era nella cucina della dice, sua casa. Dice che ha fatto un gruppo di WhatsApp con i 22 compagni. Sì, sì, e manda la foto con la coppa. Non è vero, però sarebbe bello. Sarebbe bello. Grazie. Gruppo. Ci sentiamo. Ci sentiamo. Volevo dire che chi ha premium, adesso magari alle 3.55 si può gustare la partita delle vecchie glorie, per modo di dire, che si gioca al Castello Sportesco, che è una cosa pazzesca. E ovviamente anche chi è a Milano può provare ad avvicinarsi. Non so se c'è un discorso di biglietti, cioè, francamente non lo so. Però è la partita delle vecchie glorie che si gioca prima. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Personalissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Tutti convocati. Ma io non sono Pirla. Nei ultimi due giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me e che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli. Conseguir la respuesta que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Buzaka? ¿Por qué De Blecker? ¿Por qué Stark? ¿Por qué? Nothing to say. Nothing to say about the game at all? Nothing to say. Nothing to say about the Lucas decision that left him on the pitch? Nothing to say. I have nothing to say. The Costa clash? I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. Do you not think it's time to have a chat to the fans just to give them some message, give them indication of your thinking? I'm not stupid. Ci è mancato per qualche mese, ma oggi non solo il giorno delle parole che precedono la finale di Champions League, ma anche quello dell'inchiostro. Giovanni Capuano torna Mourinho e torna allo United. Abbiamo, da stamattina vediamo la cerimonia dell'incoronazione. Hai visto che bello ieri, no? Giacca, cravatta, camicia bianca. Sempre un uomo di grande eleganza. Ci mancava. Sono contento che ci mancava. Io sono curioso di capire cosa farà, nel senso che leggiamo oggi, abbiamo letto oggi, Guardiola ha chiesto 250 milioni di euro per fare il mercato, una stronzadiella, per ribaltare tutto il Manchester City. Milioni, e sono curioso invece di capire cosa farà Mourinho con il Manchester United, che di soldi ne ha spesi di più negli ultimi due anni per non vincere praticamente nulla. Ha vinto l'FA Cup, però è stato fuori due volte su tre dalla Champions, e quindi evidentemente deve ripartire da zero. E io sono curioso, perché Mourinho non va a fargli spendere, a fargli tirare la cinghia, No, però bisogna vedere, insomma, perché ha anche dei giovani interessanti che potrebbero essere pronti a vincere in fretta. Ce lo diceva Nicola Ruggero domenica scorsa, è una squadra che, non lo so, di solito Mourinho arriva dove c'è da vincere in fretta, sì. E nel Manchester United questo potrebbe non accadere. Bah, e quindi è nel ristorante è da 100 euro comunque, eh? È nel ristorante da 100 euro e al budget adeguato. Il problema è che è nel centro commerciale da 100 euro, dove però sono in tanti pronti ad entrare nei vari negozi. Tanti inglesi, sì, tanti inglesi, perché l'anno prossimo comunque c'era appunto Guardiola City, che di milioni ne ha chiesti 260 per fare il mercato. Sì, anche Conte non farà gratis con Conte il Chelsea. Conte non è che va al Chelsea a chiedere ad Abramovic Giaccherini e basta. Wenger, come al solito, confermato all'Arsenal. Sappiamo già chi non vincerà il titolo. Ranieri, Pochettino, Guidolin, confermato lo Swansea, Klopp al Liverpool, Mazzarri 3 anni al Watford. Paolo invece in linea. Comunque buongiorno. La cosa simpatica è che la prima vera ufficiale di Mourinho sulla panchina del Manchester United sarà contro Ranieri. Sarà contro Ranieri. Nella classica sfida di agosto sarà contro Ranieri. Paolo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Io non ho saputo resistere a telefonare. Torno ancora una volta sull'argomento Ventura, perché ho sentito un ascoltatore che è intervenuto dicendo che Urbano Cairo fa pubblicità al suo allenatore, vende la sua merce, ha definito Gian Piero Ventura un allenatore molto scarso. Sì. A parte il fatto che Cairo non vende nulla, gli è stato chiesto di lasciarlo libero dalla Federcalcio. Però è maligno l'amico, ha paura che gli ritorni e quindi dice: no, ma Ventura è bravissimo. Chiunque sia, è questo che stai dicendo, no? Sì, no, ma non solo questo, ma questo la dice lunga, che la definizione di Ventura come allenatore molto scarso è una definizione che deriva dal fatto che è arrivato sul lato destro della classifica e quindi noi siamo, questo la dice lunga su quello che è mediamente la cultura sportiva disastrosa di questo paese, che è capace di giudicare un allenatore. Invito quell'ascoltatore a fare un colpo di telefono in diretta, se vorrà rifarlo, e a spiegarci come si chi è il primo giocatore a uscire in una diagonale difensiva in una difesa 4, piuttosto che dirci come si imposta una transizione difensiva con una difesa 3 piuttosto che con una difesa 4. Ecco, ci spieghi quello, lui che dice che Gian Piero Ventura però ha un patto, io sono d'accordo, però ad un patto, che siccome una delle qualità che tutti riconosciamo a Ventura è la capacità di insegnare calcio, e lui andrà a fare il selezionatore, che è una cosa diversa rispetto all'allenatore. Se ci sarà qualche difficoltà all'inizio, e per noi vorrà dire qualcosa di importante, perché ci giochiamo tanto già a settembre-ottobre, poi tutti bisognerà avere la pazienza di riconoscerla ancora eventualmente questa scelta. Sì, certo. E di non cominciare invece a bombardarla la prima difficoltà. Ma sai come andranno, sai perfettamente come andranno le cose. Lo sa anche Tancredi Palmeri. Ciao, buongiorno, collega ragazzi. Di Rin, ben noto, come voi sapete. Senti, questa la so, come vuoi ben sapere. Stavamo parlando di Mourinho, che è tornato, ci mancava. Io e Giovanni Capuano ci stavamo domandando: ma se Guardiola ne fa spendere 260 al City così pronti via, perché gli servono i giocatori, non credo che Mourinho vada a chiedere molto di meno a uno United che non vince per i suoi parametri, per i suoi standard, da un sacco di tempo. Allora, in principio, sedendosi a tavola con Ed Woodward, stiamo parlando già di alcuni mesi fa, al ristorante da 100 euro, no? Sì, proprio il centro, sentivo che parlate del centro commerciale, proprio il centro commerciale di Arese, quello da milioni di euro. Sì. In principio la promessa che gli è stata fatta è quella di un budget da 200 milioni di euro, che è un pochino più inferiore rispetto a quello di Guardiola. Vedremo se la concorrenza nel corso dell'estate lo farà alzare. Non credo, però, perché c'è una differenza: che Guardiola è stato corteggiato per anni, intendo proprio anni, sono stati presi i due dirigenti apposta con l'obiettivo finale di portare Guardiola, Soriano e Begiristain, e Guardiola ha un'idea di calcio che è tutta sua, per cui deve ricostruire tutta la squadra secondo quello che vuole lui. Mourinho invece è stato un pensiero in corso d'opera. Ovviamente con questi stiamo parlando 260-200, la siamo, e però comunque sia già la scorsa estate aveva fatto degli investimenti importanti, lo United, che si possono adattare a quelli di Mourinho, su tutti, insomma, quello di Martial, probabilmente anche Memphis Depay. Lui nel suo progetto tecnico, quello di cui in principio ha bisogno, quello che ha indicato a Woodward, sono il centravanti da tanti gol, il difensorone centrale e il centrocampista di fantasia alla Willian. Non ho detto che sia Willian, però alla Willian. Tant'è che c'è stato pure un pourparlé con Snyder, Samuel Snyder, per ora è soltanto un pourparlé. Però questi sono i tre. E intanto, per quanto riguarda il centravanti da molti gol, un'idea potremmo anche avercela. Ieri è stata chiesto a a Ibrahimovic, nel ritiro della Svezia, quanto sia vera questa voce che lo vede verso il rosso United. I don't give guarantees. I say there is concrete offers from Premier League, so let's see what happens. I had a fantastic time with him when I was working with him, so working again with him, I've been spoken with him every day since I left Inter, so there is no secret. I have a great relationship with Mourinho, and we are in contact, but not the last weeks. We have been talking for many years, so that's it. Let's see what happens. Dove te ci va, Giovanni? Ma secondo me con Mourinho parliamo da sempre, anche, da molti anni. Anche perché noi siamo qui a parlare dei 200 milioni, ma agli inglesi non gliene frega niente. No. Gli inglesi, l'unica roba che gli interessa è capire cosa fa Giggs, che certo, potrebbe andare via e magari lasciare il posto a Ibrahimovic, non tanto soltanto, non in campo perché Giggs è ritirato, ma anche come figura che Mourinho si porterebbe dietro per avviarlo poi a nuova carriera. Perché poi oggi i tabloidi inglesi, solo quello, cosa fa Giggs adesso che arriva Mourinho? Va via dopo una vita nel Manchester United, non può fare il secondo, non può fare... Perché poi Mourinho arriva e spacca tutto. Vabbè, chiaro. Siamo abituati, no? Chiaro, conosciamo benissimo. Anche se spesso lui si è ha sempre detto preferisce tenersi un uomo che conosce la storia del club. Come era l'Inter con Baresi, no? Come era l'Inter con Baresi, come era ad esempio il Real Madrid, anche lui si è tenuto. Però evidentemente... Evidentemente io non so Tancredi che informazioni ha Giggs, non gli piace. Perché Giggs non è tanto che non gli piace, che con Baresi, con Caranca, il mitico che Caranca. Che poi nel frattempo è andato al Middlesbrough, cioè Mourinho aveva un rapporto di fiducia con qualcuno che accettava il ruolo di subordine per imparare o per servire la causa. Giggs invece è il figlio della casa a cui si chiede ulteriormente di stare dietro e aspettare, a cui non hanno affidato neanche l'interim. E Mourinho vuole tutti che remino nella stessa direzione. Devo dirvi una cosa però su Ibrahimovic, perché addirittura non sarebbe nemmeno lui l'attaccante da tanti soldi. Ibrahimovic sarebbe, a dire il vero, l'extra budget. Beh, che razza di extra budget, perché non solo arriverebbe ovviamente gratis, ma è perché ancora non si è sbloccata la situazione. Perché quello che ha offerto il Manchester è un anno... sarebbe grosso modo disponibile a pagare il suo salario, grosso modo quello di adesso, che adesso prende 17 milioni, sì, ne prenderebbe tipo 15, una cosa del genere, un anno e poi opzione libera per il secondo. Ibrahimovic invece vuole un biennale o quantomeno un secondo anno che abbia delle condizioni che lo facciano scattare automaticamente, e le condizioni dovrebbero essere non così lontane dalle condizioni capestro che aveva posto Mendes quando ha portato Falcao. Però erano delle condizioni in quel caso talmente capestro che spinsero Van Gaal quasi a non far giocare mai Falcao, perché Falcao alla 15ª presenza dall'inizio in Premier avrebbe avuto la conferma del suo contratto, e Falcao ne giocò esattamente 14, per cui si sta lottando su quel punto. Sì. È vero che ancora non ha deciso Ibrahimovic, non è vero quando lui dice ho già deciso, posso spingere il bottone, non è vero, è vero che non ha ancora deciso. Però secondo me, sai, lui finisce la carriera, hai fatto la Francia, hai fatto l'Italia, ti manca sia Inghilterra che Spagna. Sì. Per un grandissimo è strano non aver mai giocato nemmeno un anno né in Premier né in Spagna, ha giocato nel Barcellona, gli manca, scusami, sì, un anno al Barcellona, gli però manca la Premier, gli manca non la Premier, protagonista come ci si aspettava, ecco. No, ma poi insomma sarebbe un finale di carriera, sì, allo United assolutamente degno della statura. Ti aggiungo anche una cosa, perché lo vuole lui Ibrahimovic? Perché le vittorie ti aiutano a costruire. Mourinho sa che arriva in una Premier super competitiva, c'è cioè Guardiola dall'altro lato ed è al primo anno e deve mettere assieme una squadra che deve vincere subito. Sì. Con Ibrahimovic tu intanto guadagni tempo, perché sai che ti porta alla sua a giocarti il titolo, e nel frattempo puoi fare crescere gli altri. Certo, certo, ma infatti è una scelta tutt'altro che peregrina. Un'ultima cosa, da Mourinho e dalla Premier alla Champions League, chiedo anche a te un pronostico, poi ne faccio sentire alcuni. Io sono davanti al Castello Sforzesco, dove tra poco si gioca la partita delle leggende, con vari nomi, Ronaldo, Totti, Vieri. Ho chiesto a Simeone prima in conferenza stampa che ne pensava di quello che ha detto Ronaldo, del fatto che trasmettesse, che non gli piaceva quello che trasmetteva ai suoi giocatori. Simeone aveva una determinazione negli occhi, dice: il calcio è come la religione e la politica, ognuno può pensare quello che vuole, non me ne curo. Io vedo una determinazione che mi fa pensare partita con pochi gol, estremamente intensa, e quando sono così le vince l'Atletico. Estremamente brutta anche, secondo me, sarà qualcosa tatticamente di no, non... dal punto di vista del divertimento sì, sì, brutta, sì, diciamo. Grazie, a voi, buon ciao, lavoro, ragazzi, ciao Tancredi Palmeri. Vuoi sentire qualche pronostico qualificato? Sentiamo. Oppure preferisci... No, ti faccio sentire prima un'altra cosa, sai cosa? Sono tornati Vieri e Ronaldo ci sono molte signorine a Milano che fanno la ola. Volevo dire che stasera siamo in giro a Milano. Occhio, pericolo, attenzione, attenzione. Bobo gol. Questo è Pucci. Bobo gol. Quello che ha i denti finti dietro è Bresciano. Ogni dente costa 6.000 euro. Ieri sono andato a vedere lo spettacolo di Pucci. 101%. Come si fa? Che fa 300. Voto 10. Guarda le occhiaie che ho, Bobo. Che brutto. Sempre stato così, Pucci. Sempre stato brutto. Sempre avuto. Buongiorno ragazzi, oggi il bomber Vieri ha perso contro il bomber Max. A tennis, primo set 6-2 per te, poi 6-0 per me e poi 6-1. Bobo era fritto stecchito. Bravo Max. Bobo gol, Bobo gol, Ronaldo gol, Ronaldo. Chi è più magro? Bobo gol, Bobo gol, Bobo gol, Bobo gol, Bobo gol, Bobo gol, Bobo gol, Bobo gol. E sono tornati, sono tornati Bobo e Ronaldo ad incendiare le notti, magari anche le giornate milanesi, intanto si divertono come avete sentito con il telefono. Prima di andare al giro, invece, pronostici, questi seri, Di Livio, Ferrara, Materazzi, Ronaldo stesso e Zambrotta. La mia sensazione, credo che poi possa vincere il Real Madrid, perché ha più giocatori, ha più grandi giocatori, e in queste partite secondo me la differenza la fanno le giocate dei grandi giocatori. Io tra l'altro sono un grandissimo fan dell'Atletico in genere, perché sono andato a vedere almeno in 2-3 circostanze delle partite e mi sono innamorato di questo pubblico così caloroso. Però dall'altra parte c'è Zizou e io tipo Zizou. È una squadra molto organizzata che negli ultimi 3 anni era 2 volte in finale, quindi è un tipo di gioco che frutta tantissimo. Poi vincere e perdere una finale è sempre molto sottile la differenza. Penso che potrebbe far molto bene, io però tifo Madrid, quindi spero che venga a Milano, che magari non vinca la Champions. Come finisce la finale? Spero 2-0 Real, Cristiano. Se lo merita l'Atletico, se lo merita Simeone, se lo meritano tutti i giocatori, perché hanno fatto negli ultimi anni delle cose straordinarie e molto probabilmente, non lo so, anche forse più voglia e più fame in questo momento. Questi erano Di Livio, Ferrara, Materazzi, Ronaldo, Zambrotta. Chi ci ha preso lo scopriamo domani sera. Sì. Tu chi vince? Io tifo Real Madrid. Ma io credo possa vincere l'Atletico. Sarebbe un risarcimento. A Lisbona siamo stati tutti contenti che l'ha vinta Carletto. Però onestamente gliela ha un po' sfilata. E poi diciamo la verità, questo è il peggior Real Madrid degli ultimi 10 anni. Non c'è dubbio, anche se esiste un dio del calcio. Guarda questa, giù questa coppa la vince, guarda la, giù la verso Milano, la vince l'Atletico Madrid, Simeone e i suoi ciolisti. Anche perché sarebbe solisti. Mezza coppa di Benitez. Mezza coppa di Benitez, insomma, mezza, non esagerare, perché insomma, abbiamo parlato 2 giorni, abbiamo detto che Zidane, nonostante sia la prima esperienza da capo allenatore a questo livello, una certa miglior dimensione al Real l'ha data. Però un pezzo di coppa, un manico sarebbe di Benitez, facciamo così. Un orecchio. Pier Augusto Stagi, da lassù dove ci sono gli stambecchi oggi, Colle dell'Agnello. Sì, siamo qui. Che succede oggi al giro? Ecco, al momento poco, si stanno rosolando. Sì. I migliori stanno procedendo tutti assieme e si deve ancora scatenare la bagarre. Speriamo che si scateni, speriamo che qualcuno abbia la forza, il coraggio, la determinazione di provare a fare qualcosa. Di solito sono... Questo giro non si è congelato, anche se devo dire che qui a Rizzo ci sono 25 gradi, siamo a 1800 metri, fa calduccio. Vedi tu, di solito io, in tappe così non, la classifica raramente viene sconvolta, è vero, si sale su quella montagna sacra del Colle dell'Agnello, sembra sia la sesta volta lì, e poi c'è una lunga discesa e poi l'arrivo con l'ultimo strappo. diciamo che possono essere decisivi la discesa e quell'ultimo strappetto, ma non penso a grandi rivoluzioni, magari mi sbaglio. Guarda, io spero e confido in Esteban Chavez, che è il corridore non adattissimo per questa tappa, molto più di quella di domani, perché ci sono tre colli di enorme grandezza. Oggi c'è il colle d'Agnello, ma è troppo lontano, quindi serve proprio per fiaccare il fisico un po' di tutti i corridori, e poi questo arrivo che è più da rapporto. Però lui può in qualche maniera mettere in crisi la maglia rossa. Speriamo che non si accontenta, ecco, il pericolo è questo, che Valverde controlli Vincenzo per difendere il terzo posto, che Chavez non si accontenti del secondo posto e che alla fine portino in carrozza la maglia rosa. Ecco. Il rischio è un po' questo. Sentiamo, domani è sabato, sentiamo nei giornali radio. Usando un termine calcistico, possiamo rischiare oggi una melina. Rischiamo la melina, sì, ma è quello che pensavamo anch'io e Capuano prima della trasmissione. Ne abbiamo discusso e siamo convinti di questo. Ciao Pier Augusto, sentiamo le GR. Con un Nibali in salute. Era un'altra storia. Poteva non essere Melina. Esatto. Grazie Pier Augusto Stagi, grazie. Ciao, ti ritroviamo domenica pomeriggio, no? Menù per domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio 17-19, ovviamente parleremo tanto di quello che avremo visto domani sera a San Siro. Poi domenica è anche la giornata del primo test della nazionale sulla strada dell'Europeo. E quindi insomma proviamo un po' a capire. È anche il giorno di Monte Carlo, e insomma c'è un sacco di sport. Non vi abbandoniamo mai per tutta l'estate, sempre presenti, sempre in diretta, sempre tutti convocati. Grazie a Giovanni Capuano, naturalmente, a Giorgio De Luca, domenica, il nostro autore, a Gianmarco Ferronato in regia, a Federico Bini in redazione. Ciao. Saluti.